Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza, perché se non prorogassi lo stato di emergenza non avremo più neppure i mezzi, gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e, se del caso, circoscrivere chiusura di attività in territori molto predeterminati e circoscritti. Quindi non sorprendiamoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è l'invito del Presidente del Consiglio Conte, se è praticamente, diciamo, imminente la proroga dello stato di emergenza, che scadrebbe in realtà il 31 luglio, ma che da questa dichiarazione oggi del Presidente del Consiglio è piuttosto chiaro che proseguirà sino al 31 dicembre. In sintesi ha spiegato il motivo, ma poi cercheremo di capire ulteriormente perché di questa proroga dello stato di emergenza e anche chi la può decidere e che cosa comporta. Ne parlerò con un costituzionalista, perché già c'è la reazione in particolare dell'opposizione, che dice basta approfittare, ci ha preso gusto Conte a fare i decreti del Presidente del Consiglio dello stato di emergenza, ogni decisione deve passare dal Parlamento, dice l'opposizione. Vedo adesso un chiarimento di Palazzo Chigi in questo istante, che dice: sulla proroga dello stato di emergenza fonti di Palazzo Chigi sottolineano che lo stesso Presidente Conte ha affermato che si tratta di una decisione che non è ancora stata presa, se si procedesse l'intenzione è quella di passare per il Parlamento. Quindi un'ulteriore precisazione, ma poi entreremo più nel dettaglio. Fra le altre cose torneremo a parlare anche dell'orsa, l'orsa Gaia, così chiamata in Trentino, che è in fuga dopo aver ferito due turisti settimane fa. Sapete che il presidente della provincia autonoma di Trento ha emesso un'ordinanza per abbatterla, ma c'è stato il ricorso del ministro dell'ambiente Costa, che per il momento l'ha sospesa. Ne parleremo con Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, e con un esperto zoologo e quindi anche di orsi. Per i vostri commenti, lo sapete, è inutile ve lo dica, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666, c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y linetta bassa Giordano. La situazione relativa al Covid-19 in Italia: tornano a salire i contagi, sono 276 nelle ultime 24 ore, le vittime sono 12 e Conte annuncia un possibile prolungamento dello stato d'emergenza. Il coronavirus nel mondo, l'allarme dell'OMS, aumento record di casi in 24 ore. Concessioni autostradali, out di Conte ad Aspi, proposta vantaggiosa o revoca, ed è andato bene il test per il Mose di Venezia. Produzione industriale italiana in rimbalzo a maggio, ma forte calo rispetto a un anno fa. Istanbul, l'annuncio del presidente turco Erdogan: Santa Sofia potrà tornare a essere una moschea. L'orsa del Trentino, sospesa l'ordinanza di abbattimento su ricorso del ministro dell'ambiente Costa, ha effetto notte il presidente della provincia autonoma di Trento. Calcio, sorteggi di Champions maschile, Juve e Napoli in rotta di collisione con i mostri sacri. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Oggi sono in ulteriore risalita i nuovi contagi, sono 276 nelle ultime 24 ore, erano 229 ieri. Il totale dei contagiati in Italia quindi è 242.639. 4 le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I morti sono stati 12, così come ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.938. Questi sono i dati forniti quotidianamente dal Ministero della Salute, e l'Italia si avvia verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Curva epidemiologica in rialzo per il terzo giorno consecutivo, 276 nuovi casi registrati, la metà dei quali in Lombardia. Il totale delle persone colpite da coronavirus in Italia arriva così a 242.639, 34.938 i decessi, 12 nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo dei ricoveri anche in terapia intensiva. Il quadro dell'infezione resta a bassa criticità, evidenzia il monitoraggio settimanale, anche se in diverse regioni l'indice di contagio ha superato quota 1 a causa di alcuni focolai da importazione, ha sottolineato Gianni Rezza, direttore per la prevenzione del Ministero della Salute. L'Italia intanto si avvia verso la proroga dello stato di emergenza, ha anticipato il premier Giuseppe Conte a margine della cerimonia per il Mose a Venezia. Ragionevolmente, non deve sorprendersi nessuno, ma prorogheremo, ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza. La proroga, spiegano fonti di governo, dovrebbe arrivare fino al 31 dicembre, consentirà fra le altre cose di fare ricorso a nuovi DPCM e di mantenere lo smart working per i dipendenti pubblici e privati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo prima, della proroga dello stato di emergenza, chi la decide e cosa comporta, parlerò con il costituzionalista Alfonso Celotto tra poco. E a seguito dell'ordinanza del 9 luglio 2020, quindi di ieri, del Ministero della Salute, emanato al fine di contenere la diffusione del Covid-19 in Italia, l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha informato nella serata di ieri tutte le compagnie aeree italiane e le compagnie straniere operanti in Italia in merito ai contenuti della predetta ordinanza e l'immediata applicazione. Di conseguenza, nessun passeggero proveniente direttamente o indirettamente dai paesi elencati potrà entrare in Italia fino al 14 luglio prossimo. Abbiamo parlato ieri lungamente con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. I paesi, ve lo ricordo, sono Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia e Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Tale restrizione si applica anche alle persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o sono transitate nei predetti paesi, spiega l'ENAC. Lombardia, via libera da domani al calcetto nella regione, lo conferma la nuova ordinanza del presidente Fontana che autorizza da sabato 11 luglio gli sport di squadra in Lombardia di contatto e individuali, solo in assenza di segni o sintomi, mentre all'accesso della struttura la temperatura non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi. E passiamo alla vicenda delle concessioni autostradali. La notizia dell'amministratore delegato Roberto Tomasi, indagato a Genova da gennaio per i pannelli antirumore pericolosi, complica la vicenda autostrade. Anche se Aspi spiega che Tomasi avrebbe chiarito tutto nell'interrogatorio di gennaio e la sua posizione potrebbe essere presto archiviata. I vertici di Atlantia stanno elaborando la proposta da presentare al governo entro sabato. O sarà particolarmente vantaggiosa per l'interesse pubblico, spiega il premier Conte a Venezia, oppure si revoca la concessione. I tecnici del governo hanno chiesto ad Autostrade di alzare la proposta transattiva dei mesi scorsi da 3 miliardi di euro a 3 miliardi e 4, più un abbassamento di tariffe nei prossimi anni. In caso di proposta positiva, martedì in Consiglio dei Ministri andrà il nodo successivo, l'assetto della società. I 5 Stelle in questi giorni stanno chiedendo l'uscita dei Benetton più che la revoca della concessione e anche il vice segretario PD Andrea Orlando mette il radicale riassetto societario tra le opzioni. I Benetton sono disponibili a scendere in minoranza anche con la soluzione dell'aumento di capitale che eviterebbe allo Stato di dover pagare quote. Ma il vice ministro Buffagni avverte: se i Benetton non escono dalla gestione delle autostrade, noi siamo pronti a lasciare il governo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La produzione industriale italiana, che a maggio schizza in alto segnando un aumento del 42,1% rispetto ad aprile. Il rimbalzo c'è ed è di tutto rilievo. La produzione industriale a maggio segna un aumento del 42,1% rispetto ad aprile. Il confronto congiunturale però con un mese, aprile, caratterizzato dalle chiusure in molti settori produttivi in seguito ai provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria. Su base annua il dato mostra ancora un calo molto marcato. Corretto per gli effetti di calendario, a maggio l'indice complessivo è diminuito anno su anno del 20,3%. Dunque l'attività risente ancora della situazione generale dall'epidemia, meno 20% rispetto a gennaio, e nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione è calato di quasi il 30% rispetto ai 3 mesi precedenti. In ogni caso, a maggio tutti i comparti dell'industria sono cresciuti, a eccezione di quello delle industrie alimentari, bevande e tabacco, che registra una leggera flessione. Settore questo che però aveva retto durante la fase più acuta dell'emergenza Covid. Rimbalzi addirittura a 3 cifre si evidenziano invece per le attività che avevano risentito del lockdown, tessile e mezzi di trasporto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Mose adesso, per la prima volta nella sua storia millenaria, la laguna di Venezia è stata oggi isolata artificialmente dal mare. Dopo 17 anni dalla posa della prima pietra, la laguna per la prima volta è isolata dal mare. Le paratoie del Mose in fila a pelo dell'acqua alle bocche di Porto dell'Ido, Malamocco e Chioggia formano una barriera di 1,6 km in totale. Alle 12.25 di oggi il primo test di sollevamento in contemporanea dei 78 cassoni gialli è andato a segno, nonostante i tanti lavori ancora da completare per rendere operativo il sistema che dovrà salvare Venezia dal dall'acqua alta. Il premier Conte lo aveva promesso dopo l'acqua grande del 12 novembre, che sarebbe tornato in città per dare un segnale positivo, e così è stato. Capisco perfettamente le proteste, le sensibilità per la salvaguardia dell'ambiente, le valutazioni tecniche, ingegneristiche diverse che sono state fatte, però siamo nell'ultimo miglio. Sarebbe un assurdo non lavorare tutti e non auspicare tutti che questi test funzionino. Il nostro obiettivo è tutelare Venezia dall'acqua grande, come dicono qui, non altro. Dopo le 15, i tecnici del Consorzio Venezia Nuova hanno fatto riabbassare le paratoie, che sono tornate sott'acqua nei loro alloggiamenti. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Parliamo di Europa. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, propone di mantenere intatta l'entità dei recovery fund a 750 miliardi di euro e di confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti. Lo ha spiegato lo stesso Michel presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo appunto sui recovery fund bilancio europeo 2021-2027 al vertice del 17 e 18 luglio. Intanto Conte è volato all'Aia per un incontro questa sera col suo omologo Rutte, incontro i cui esiti poi cercheremo di capire nel corso di questa puntata. Coronavirus nel mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala un aumento record di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore a livello globale. In particolare stima il numero dei nuovi casi a 228.102 nelle ultime 24 ore, con l'ultimo calcolo che si attestava a 212.326 lo scorso 4 luglio. La media dei decessi rimane invece invariata a circa 5.000 al giorno. Parliamo della crisi anche che ha toccato purtroppo la Spagna e anche la Catalogna, con capitale Barcellona, con molte attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti chiuse. Sono le principali vittime dello tsunami economico che è generato dal Covid-19, che ha colpito anche il capoluogo catalano e la Spagna. Dopo settimane trascorse in quarantena obbligatoria, la Spagna è entrata in una nuova fase, definita di nuova normalità a partire dal 21 giugno, una fase che prevede le riaperture delle frontiere, tra le principali novità ancora di salvezza per la Spagna, che vive soprattutto di turismo, è un pilastro senz'altro della propria economia. Sentiamo un anticipo del reportage di Mario Maragò, che andrà in onda domenica alle 8:15. Nosotros vinimos el viernes a trabajar, me acordaré, y teníamos el restaurante lleno a mediodía. Siamo venuti a lavorare il venerdì. Avevamo il ristorante pieno a mezzogiorno ed alcuni tavoli prenotati per la sera. Appena arrivati qui, la gente ha cominciato però a dirci che il giorno dopo non avremmo potuto aprire. Entonces se cierran los locales, queda toda la comida. Sandra Tamayo è titolare insieme al marito di un ristorante nel porto turistico di El Masnou, località balneare della provincia di Barcellona. Un settore, quello della ristorazione, duramente colpito dagli effetti della quarantena imposta per frenare la diffusione del coronavirus in Spagna, che ha causato la distruzione di circa 1 milione di posti di lavoro negli ultimi mesi. La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fue en el pasado, y aquí se ha dicho, y lo va a ser en el futuro. El sector turístico ofrece seguridad. Y esta es una de las grandes garantías y las fortalezas que tiene nuestro país en términos relativos respecto a nuestros competidores. In coincidenza con l'entrata in vigore della fase definita della nuova normalità, che ha sancito la riapertura delle frontiere, il governo spagnolo ha varato un piano di aiuti da 4.000 milioni di euro in favore del settore turistico. Un sostegno a lungo atteso dagli operatori del settore, che seguono però con apprensione l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus. Parliamo di Turchia adesso, perché il presidente turco Erdogan ha annunciato la riapertura di Santa Sofia come moschea a partire dal 24 luglio, dopo la decisione del Consiglio di Stato turco che ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 dell'allora presidente Atatürk, che trasformava il monumento, il più visitato di Istanbul, in un museo. Il governo greco denuncia quello che definisce una provocazione al mondo civilizzato che porta la Turchia, dice la Grecia, indietro di 6 secoli. In Italia adesso con la cronaca. Un elicottero si è inabissato nel Tevere alle porte di Roma e è caduto in zona Nazzano Romano. Sul posto i vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri sono in corso ricerche dell'equipaggio nelle acque. Alcuni testimoni avrebbero visto l'elicottero civile toccare fili dall'alta tensione e poi cadere nel fiume inabissandosi. L'Orsa del Trentino torna a far parlare di sé, perché è stata sospesa l'ordinanza di abbattimento su ricorso del ministro dell'Ambiente Costa, e qui a effetto notte poi ne parleremo con il presidente della provincia autonoma di Trento e con uno zoologo della Sapienza di Roma. Siamo allo sport, calcio europeo maschile con i sorteggi complicati della Champions 2020. La Terra Santa del calcio sarà ad agosto in Portogallo. non a Gerusalemme ma a Lisbona. La Juventus dovrà, o dovrebbe, visto che ancora deve eliminare il Lione, salire la sua via dolorosa, perché quella ha disegnato la mano poco amica di Paolo Sosa. O Real o City, e poi o Barça o Bayern, Napoli permettendo. Su quel lato del tabellone stanno appoggiate 26 Coppe dei Campioni, dall'altra parte zero. Chi si vuol lamentare lo faccia con il caso, o se preferite con il destino, che ha voluto con certezza una finalista che non ha mai vinto. A questo proposito vorremmo raccontarvi il sorriso luccicante di Percassi. L'Atalanta incrocerà sì il Paris Saint-Germain dei fenomeni, peraltro da mesi senza una partita ufficiale. Ma poi per chi passa c'è la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid, non esattamente l'Everest d'Europa, tanto che vorremmo che si giocasse stasera stessa. Da un parco giochi all'altro, quello tedesco del gran finale di Europa League. Per l'Inter, oltre il Getafe, ci sarebbe il Leverkusen, roba seria. Per la Roma, dopo il Siviglia, il Wolverhampton e poi magari lo United. Dura. Ma se pensiamo che dal 5 al 23 agosto ogni sera ci sarà almeno una partita europea ad eliminazione diretta, passa perfino la paura per far posto al brivido. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso musica. Fioriranno ciliegia a Saigon, mentre ci stiamo perdendo, siamo nati già piangendo. Dischi più venduti della settimana, Que Pequeño si conferma in vetta alla hit parade, situazione invariata quindi rispetto a 7 giorni fa, secondo le rilevazioni FIMI, GFK. Que Pequeño si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta, quindi con Mr. Fini, suo 8° album, uscito a distanza di 2 anni da Sinatra. Al secondo posto stabile il rapper Ernia con Gemelli, primo posto tra i vinili, sua terza fatica discografica, e al terzo Tedua con Vita Vera Mix Tape. La mia vita è un film che non è mai uscito, lo faccio a modo mio, la mia way come Carlito. Andiamo verso la viabilità, ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra le notizie più importanti ne parleremo tra poco: la presenza di Conte all'Aia con il suo omologo Rutte, primo ministro olandese, per cercare di convincerlo sui recovery fund, sui prestiti che la Commissione europea dovrebbe erogare ai paesi più in difficoltà, in particolare naturalmente l'Italia, e convincere Rutte che c'è la necessità di condividere il debito. Poi ne parleremo e capiamo da questo incontro che cosa emerge, anche se c'è una posizione, lo sapete, piuttosto rigida da parte dell'Olanda e da cosiddetti paesi frugali. Dice questo ascoltatore: Andrea, qui si alza una paratia, ma poi dice i paesi frugali non si fidano di noi. Dice, insomma, qua si fanno queste cose, ma in realtà diamo un'immagine, secondo Andrea, non così particolarmente affidabile al mondo. Poi appunto parleremo anche di questo incontro, ma prima di tutto soffermiamoci sull'annuncio di oggi di Conte. Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza, perché se non prorogassi lo stato di emergenza non avremo più neppure i mezzi, gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e, se del caso, circoscrivere chiusura di attività in territori molto predeterminati e circoscritti. Quindi ragionevolmente non deve sorprendersi nessuno, ma prorogheremo, ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza. Quindi niente sorpresa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberto Giordano naturalmente sempre con voi, perché questo ha annunciato oggi il Presidente del Consiglio Conte a margine della cerimonia, era a Venezia, per il funzionamento del MOSE. E cioè, che cosa ha detto? Che quasi certamente lo stato di emergenza, quello che scadrebbe il 31 luglio, sarà prorogato, probabilmente, secondo fonti governative, fino al 31 dicembre. Conte dice: ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio, non è stato ancora deciso tutto, ha sottolineato, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione. Allora, diciamo innanzitutto che è un atto un po' scontato, che ci si aspettava questa proroga dello stato di emergenza almeno fino al 31 dicembre. Nella sintesi della giornata vi ho raccontato un po' la situazione dell'Italia, i dati aggiornati del Ministero della Salute che dimostrano, insomma, che il virus circola ancora, ci sono vari focolai in Italia, per non parlare di quello che sta succedendo in tanta parte del mondo. Quindi fino a che ci sarà anche un solo contagiato si rende necessario procedere seguendo degli iter più snelli. Nella dichiarazione che è stata fatta il 31 gennaio 2020 viene infatti specificato: era necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi. Prima di tutto chiedo a un fine costituzionalista qual è Alfonso Celotto, che saluto e ringrazio di essere nuovamente qui a Effetto Notte. Con piacere, buonasera, grazie del fine. Professor Celotto, ricordo ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Allora, intanto che cosa comporta lo stato di emergenza, se vogliamo dire sinteticamente, schematicamente, Celotto? Allora, vuol farmi fare il burocrate, ho capito, perché è una questione molto tecnica. Allora, la normativa che è stata utilizzata, quella della dichiarazione del 31 gennaio, è una normativa di protezione civile, cioè noi abbiamo una legge sulla protezione civile per fronteggiare le calamità. Quando c'è una calamità locale o nazionale, il Consiglio dei Ministri, come ha fatto il 31 gennaio, delibera lo stato di emergenza. A quel punto, dopo lo stato di emergenza, il Presidente della Regione o il Presidente del Consiglio, a seconda dell'ampiezza territoriale dell'emergenza, può emanare delle regole straordinarie, eccezionali, quelli che sono stati i nostri DPCM, derogando alle leggi e potendo anche far intervenire la protezione civile per portare aiuti, comprare beni senza appalto e quindi usare una normativa di emergenza. Quindi l'annuncio di Conte, che era un annuncio in fondo aspettato, perché il coronavirus, tutti lo sappiamo, non è debellato, è di dire potremo andare avanti con l'emergenza coronavirus prudenzialmente fino al 31 dicembre. E fin qui è, diciamo, aspettato, però ci sono delle critiche, Delle critiche parliamo tra pochissimo, Celotto, perché... E infatti me le sono riservate. Ecco, infatti, allora, dopo passiamo alle reazioni politiche, eccetera. Però diciamo che con il nuovo decreto, quindi in base a quello che abbiamo visto in questi mesi, sarà possibile, come diceva, firmare nuovi decreti del Presidente del Consiglio, quindi decretare per esempio nuove zone rosse, acquistare tutto il materiale necessario a far ripartire in sicurezza la scuola, mascherine, gel, banchi, eccetera, eccetera, come avviene, le diceva, per le calamità naturali, per esempio i terremoti. No? E poi consente anche lo stato di emergenza di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti, che non vengono dati direttamente, assegnati direttamente, ma seguono comunque dei percorsi agevolati proprio per l'eccezionalità. Come è successo, no, per le mascherine, sì. Ecco, e tra l'altro consentirà anche, questo è stato anche annunciato, di programmare per altri 6 mesi, questa è una cosa importante, nuova nel nostro paese, il lavoro in smart working per i dipendenti dello Stato, dipendenti pubblici ma anche privati, quindi di prorogare per altri 6 mesi questo. Allora, diceva giustamente che ci sono state delle reazioni, per lo più dall'opposizione, che chiede di, in caso appunto si dovesse prorogare effettivamente come sarà questo stato di emergenza, di passare però per la decisione attraverso il Parlamento. Leggo qualche reazione. Per esempio Salvini, leader della Lega, dice: gli italiani meritano fiducia e rispetto, con tutte le attenzioni possibili la libertà non si cancella per decreto. Mara Carfagna di Forza Italia, nonché vicepresidente della Camera, ha detto: il Premier Conte non può pensare di abusare di uno strumento straordinario come la dichiarazione dello stato di emergenza senza renderne preventivamente conto al Parlamento. E così anche Gelmini, sempre di Forza Italia: Conte ci ha preso gusto con lo stato di emergenza, da mesi il Parlamento è ormai esautorato, i decreti quando vanno bene vengono esaminati da un solo ramo delle Camere, procedono a colpi di fiducia, eccetera eccetera. Dice: nessuno mette in discussione che la guardia contro il Covid debba essere tenuta alta, ma questo non significa incoronare Conte leader massimo, dice Gelmini. Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: sul fatto che si debba passare per il Parlamento non si deve neanche specificare per troppo tempo, dice Meloni, è stato consentito a Conte che Conte si muovesse indipendentemente dalle prerogative parlamentari. Poi c'è Della Vedova, segretario di Più Europa, che dice: Conte oggi ha anticipato alla stampa il prolungamento dello stato di emergenza con grave superficialità. Al punto in cui siamo, il tema andava discusso in Consiglio dei Ministri, proposto al Parlamento ed eventualmente spiegato poi all'opinione pubblica in modo ufficiale. In realtà poi dei dubbi sono stati sollevati anche da PD e Italia Viva, perché dicono appunto che ci vuole più collegialità, insomma, in queste decisioni. Però aggiungo ancora, abbia pazienza, Celotto, appunto questa notizia che ho letto all'inizio, proprio un aggiornamento in diretta, una nota di Palazzo Chigi che dice: sulla proroga dello stato di emergenza, fonti di Palazzo Chigi sottolineano che lo stesso presidente Conte ha affermato che si tratta di una decisione non ancora presa, ma se si andasse in quella direzione l'intenzione del presidente sarebbe comunque quella di passare per il Parlamento. Quindi allora diciamo, è risolta la questione, si passerà per il Parlamento? Precedentemente non era stato fatto? Allora, va precisata una cosa, cioè non è, in Italia non era mai capitata un'emergenza nazionale, c'erano sempre state emergenze locali, no? Il terremoto di Amatrice, il terremoto dell'Aquila, e quindi in quei casi era normale che si andasse avanti con atti del governo. Perché? Il problema è che invece noi siamo una repubblica parlamentare, cioè il Costituente scelse non di dare tutti i poteri principali al governo come in una repubblica presidenziale, gli Stati Uniti e in parte anche la Francia, ma di far eleggere il Parlamento dal popolo, e poi il popolo nomina il Presidente della Repubblica, designa il governo con la fiducia e così via. Questo cosa voglio dire? Che l'organo centrale del nostro sistema è il Parlamento. Ora, il 31 gennaio forse non ci si aspettava neanche quello che poteva succedere, quindi si è detto si procede con norme di protezione civile, quindi norme solo governative. Poi nelle settimane i DPCM che hanno limitato le nostre libertà sono stati criticati proprio per questo, perché normalmente cose del genere bisogna farle con la legge, cioè con un atto che passi in Parlamento, proprio perché la Costituzione garantisce che la limitazione delle libertà fondamentali della persona va fatta con la legge, ma che non è un formalismo, ma è proprio la garanzia della Repubblica parlamentare, perché il governo è una parte politica, il Parlamento rappresenta maggioranza e opposizione e quindi ti dà ampiezza di dibattito e garanzia del pluralismo. Ecco allora la perplessità, cioè visto che oggi sappiamo come può essere la situazione pandemia, un eventuale nuovo lockdown, una quarantena, è più opportuno e più legittimo che intervenga il Parlamento e non che si continui soltanto con atti governativi. Questa è la garanzia fondamentale, quindi questa è la perplessità, cioè se si dovesse andare avanti deve intervenire il Parlamento. Questo è sacrosanto rispetto al sistema costituzionale. Quindi prima, precedentemente non c'era stato, almeno era stato criticato in questo senso, come diceva, no? Che non c'era stata collegialità, condivisione. A questo punto quindi c'è, come dire, un come si è imparato a gestire, almeno nel maggior modo possibile, miglior modo possibile, il coronavirus, eventuali focolai eccetera eccetera, anche poi la gestione, diciamo, più da un punto di vista politico, giuridico, Celotto. Diciamo che il coronavirus ci ha colto tutti di sorpresa, no? Cioè nel senso che da ogni punto di vista, quindi, diciamo. Da ogni punto di vista economico, sociale, forse solo un romanzo si poteva aspettare che stavamo tutti chiusi in casa per settimane, per mesi, tutto quello che è successo, benissimo, e quindi si era pensato che potessero bastare le regole di protezione civile, cioè che il governo fa alcuni decreti. Ora che però sappiamo quello che è stato affrontato in maniera forse illegittima dal punto di vista delle garanzie parlamentari, però possiamo anche dire che in fondo è stata una situazione così emergenziale, così inaspettata, che è andata bene così. Però se adesso dovesse andare avanti, cioè dovesse prolungarsi lo stato di emergenza, bisogna rispettare le garanzie parlamentari, quello è il punto, cioè bisogna garantire al Parlamento che il Parlamento possa intervenire e possa garantire tutto e possa garantire il pluralismo, cioè il fatto che le decisioni le prende l'organo rappresentativo del popolo. Questa è l'impostazione costituzionale anche nell'emergenza. Ecco, mi pare che appunto, come leggevo, Palazzo Chigi questa cosa l'ha sottolineata, l'ha confermata, l'ha spiegata. Chiede Anna, ma è stata scelta così una data a caso il 31-12? In realtà si completa l'anno, forse addirittura vedevo che si potrebbe prolungare fino al 31 gennaio, però ancora, come diceva Conte, non è stato deciso in modo definitivo, no, professor Celotto? Ma sì, anche perché, guardi, nessuno lo sa quello che succederà. Cioè siamo tutti diventati molto più cauti e molto più dubbiosi, nel senso di ci sarà una seconda ondata, non ci sarà, colpirà l'Italia, colpirà gli altri paesi. Quindi diciamo che c'è una differenza, siamo più pronti e dobbiamo anche ammettere una cosa, che in fondo l'Italia, che è stata in quelle grandi difficoltà che tutti ricordiamo a marzo ed aprile, adesso è riuscita a contenere l'epidemia con una misura forse medievale, no? Che ricorda Manzoni, che ricorda la gestione della peste, che però è riuscita a contenere il virus. Gli Stati Uniti, che hanno usato una politica diversa, sono ancora nel pieno dell'epidemia. Già, fuori, quindi, controllo, diceva Fauci, il virologo. Esatto, fuori controllo. Ora, sicuramente è stato sbagliato dal punto di vista costituzionale quello che è successo, però era una situazione inaspettata, no? E quindi è come, per, è come dire, uno sta guidando in autostrada, a un certo punto non si aspetta di trovare una mandria di elefanti in autostrada, a quel punto va contromano, vabbè, può succedere la prima volta, no? Che vai anche contromano e violi le regole, però adesso che possiamo sapere quello che ci aspetta, se dovessimo prolungare un lockdown, delle regole del genere, devono passare in Parlamento, perché yes, da noi è il Parlamento che deve fissare le regole. Guardi, può sembrare un formalismo, ma non lo è, perché siamo una repubblica parlamentare, proprio per questo. È chiaro. Grazie professor Alfonso Celotto. Grazie. Un piacere sempre. Reciproco. Buon lavoro, buona serata. Adesso ci fermiamo per la solita pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti, se volete, sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siete qua ad ascoltare Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto. È Roberto Giordano che vi accompagna ogni sera dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, per raccontarvi tutta la giornata nelle sue notizie più importanti, nei fatti principali e poi alcuni argomenti da approfondire insieme agli ospiti. Abbiamo parlato finora ampiamente con il costituzionalista Celotto, Alfonso Celotto, dell'annuncio del Presidente del Consiglio Conte di una quasi certa proroga dello stato di emergenza, sino che scadrebbe il 31 luglio, sino almeno al 31 dicembre. Ancora una decisione non è presa, però ormai è data per scontato. Abbiamo spiegato anche che cosa comporta, chi può decidere, e poi la nota poco fa di Palazzo Chigi che assicura che se si dovesse andare in quella direzione ci sarà un passaggio parlamentare, non sarà una decisione presa soltanto dal Presidente del Consiglio o dal Consiglio dei Ministri. Giornata comunque intensa questa per Conte, perché dopo queste dichiarazioni da Venezia, dove era lì per la cerimonia per il funzionamento del MOSE, è corso in Olanda per incontrare il suo collega olandese Rutte in vista del Consiglio Europeo del 17-18 luglio, e preme sui recovery fund, su questi strumenti della Commissione Europea per aiutare i paesi gravemente colpiti, un po' tutti, chi più chi meno, soprattutto per esempio l'Italia o la Spagna, dal coronavirus. Sentiamo dal nostro Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a te, buonasera a tutti. Se per ora l'incontro dovrebbe essere iniziato intorno alle 20.30, 21, Gerardo, c'è già qualche... Una cena di lavoro al Binnenhof, la sede del governo olandese all'Aia, e con Rutte c'era già stato degli incontri quando Rutte era venuto a Roma, e c'erano state intense colloqui telefonici in tutti questi giorni. Però qui si sta cercando di preparare un accordo, o quantomeno una ipotesi di accordo, per il Consiglio Europeo del 17 e 18. E oggi anche la giornata nella quale il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il belga Charles Michel, ha fatto una proposta anche, diciamo, d'intesa con la Presidenza tedesca, che è cominciata il 1 luglio e che dovrebbe trovare il favore dei quattro paesi frugali, che sono un po' guidati dall'Olanda di Rutte, e quindi sono l'Olanda, la Svezia e la Danimarca, quelli che non vorrebbero, insomma, fare partecipare a questo debito creare comune. Creare delle condizioni soprattutto alla parte dei cosiddette sovvenzioni a fondo perduto, che in base alla proposta della Commissione, della Ursula von der Leyen, sono ben 500 miliardi dei 750 complessivi del recovery fund, che adesso ha il rinominato Next Generation EU. Quindi siamo nella fase più delicata del negoziato. Lunedì Conte vedrà la cancelliera Merkel a Berlino, e il 16, alla vigilia del vertice, a Bruxelles incontrerà il presidente francese Macron. Quale può essere il punto di caduta? Insomma, sicuramente c'è un avvicinamento delle posizioni dopo la proposta di Michel, che sposta dalla Commissione al Consiglio l'ultima parola per la concessione delle sovvenzioni a fondo perduto. Questo che cosa vuol dire? Che in realtà gli Stati membri potranno verificare il progresso nelle riforme, per l'Italia così come per gli altri paesi beneficiari delle sovvenzioni, e prima di dare il loro via libera, mentre prima era previsto nella proposta della Commissione semplicemente un disco verde, diciamo, di ufficio da parte della Commissione. E questa è una cosa che, diciamo, ai frugali piace molto, perché piace alle loro opinioni pubbliche, ai loro parlamenti. Poi, per quanto riguarda il bilancio, la proposta Michel in realtà riduce leggermente da 1.100 a 1.074 miliardi l'ammontare complessivo, quindi è molto meno ambiziosa sia di quello che aveva visto il Parlamento europeo, sia quello che diciamo era l'impianto iniziale, e soprattutto c'è una conferma dei rebates, cioè gli sconti che vengono concessi ai paesi frugali che sulla base dei contributi, e un fondo, diciamo, di compensazione Brexit da 5 miliardi per quei paesi più colpiti dall'uscita di Londra dalla UE, come appunto Olanda e Belgio. Anche questo loro dovrebbe andare bene, meno all'Italia, perché la riduzione del bilancio in realtà potrebbe ridurre anche i contributi. Poi i finanziamenti, i contributi. Per chiudere, Gerardo, quindi una decisione definitiva si spera che possa arrivare 17-18 luglio? 17-18, ma non escluso, perché tutti parlano di prima dell'estate, non escluso poi un ultimo consiglio europeo straordinario entro luglio. Chiaro. E quindi ci potrebbe essere un secondo consiglio, quello definitivo, entro luglio. Speriamo, insomma, prima di agosto. Grazie Gerardo Pelosi, intanto. Inshallah. Ciao Gerardo, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie da approfondire con gli ospiti, sempre Roberto Giordano con voi, e parliamo di orsi. La notizia qual è? È che è stata sospesa fino al 31 luglio l'ordinanza di abbattimento dell'orsa del Trentino, vi ricordate, accusata di aver aggredito due persone sul Monte Peller. Questa sospensione è avvenuta in seguito al ricorso delle associazioni ambientaliste, e intanto il Ministero dell'Ambiente sta lavorando per chiedere proprio l'annullamento di questa ordinanza, presentando ricorso al TAR. La decisione è stata assunta dopo che il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, ha respinto l'invito del ministro Costa, Sergio Costa, di cui vi ho parlato nei giorni scorsi, a ritirare almeno quella parte dell'ordinanza che chiedeva l'abbattimento dell'orsa. Costa scrive: continua la nostra azione per salvare Gaia, l'orsa minacciata da chi vede, dice Costa, che l'uccisione come un'unica via, dopo aver affidato al presidente della provincia autonoma di Trento ammazzare un'orsa solo per aver reagito, non solo non mi vede favorevole, ma la reputo un'ingiustizia. E allora saluto Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, che ringrazio per la sua presenza. Buonasera. Buonasera Fugatti. E c'è Luigi Boitani, che è già stato qui a parlare di orsi, professore di zoologia all'Università Sapienza di Roma. Bentornato professore. Buonasera. Oh, Fugatti, quindi quest'orsa per ora è sospesa l'ordinanza di abbattimento, vuol proprio che questa orsa sia eliminata? Non è che lo deve chiedere a me, buonasera. Buonasera. Noi c'è un problema di sicurezza pubblica, perché quest'orsa ha aggredito due persone e solo fortunatamente queste persone sono ancora vive, perché una di queste persone è finita all'ospedale con la gamba rotta per i morsi dell'orsa. Di questi sono i fatti. C'è un problema di sicurezza pubblica, non c'è, diciamo, un accanimento verso questo animale in particolare. Fugatti, però gli stessi feriti dicono, hanno detto nei giorni scorsi, che non vogliono che sia abbattuta l'orsa. Beh, ma lei sa, il ferito può dire quello che crede. Se il presidente della provincia autonoma di Trento prende un'ordinanza di questo tipo, ritiene che in Trentino la situazione sia da gestire in questo modo. E guardi che non è che ce la siamo inventata noi questa cosa qua, da diverso tempo in Trentino c'è un tema sulla gestione degli orsi che sul quale c'è anche, diciamo, una certa sensibilità della nostra popolazione, perché oggi la nostra popolazione ha paura a vivere la vita come la viveva una volta, ad andare in campagna, ad andare nei boschi, perché il numero di orsi è eccessivo rispetto a quello che era il progetto iniziale. Qual era il progetto iniziale? Quanti orsi si dovevano reintrodurre? Più o meno il numero che avevate pensato qual era, Fugatti? Il progetto era di un 40-60 orsi. E adesso? Un territorio come il nostro. Oggi i numeri sono sui 90 e più esemplari e diventa difficile la convivenza ambientale e sociale tra questo elevato numero di orsi. L'anno prossimo saranno di più perché ci saranno i piccoli che cresceranno e che ovviamente saranno le nascite, e che quindi in un territorio comunque ristretto come il nostro, con una forte presenza diciamo umana all'interno delle montagne e nei boschi, diventa difficile la gestione con questo numero elevato. Chiaro. Ma tant'è, e fino lì è una cosa. Dopodiché, quando accadono fatti come questo, noi dobbiamo avere il diritto di poter intervenire, abbiamo il dovere e il diritto di poter intervenire, perché coloro che si sono sempre occupati di orsi ci hanno sempre detto che l'orso non si dovrebbe avvicinare all'uomo, se vede l'uomo diciamo scappa, non si dovrebbe avvicinare alle case, alle abitazioni, e questo non sta avvenendo perché il numero di orsi che abbiamo in Trentino comincia ad essere elevato. Chiaro. Se ci aggiungiamo che l'orso attacca una persona, noi dobbiamo intervenire per tutelare la sicurezza della nostra persona. Professor Boitani, come si fa? Quindi siete la situazione effettivamente insomma è un po' da gestire, come si fa a contenere il numero di orsi, il rischio che possano attaccare? Sono due argomenti molto diversi, quello del contenimento numerico e quello del contenimento del rischio. Io ricordo, sicuramente il Presidente Fugatti si ricorda molto bene, che quando gli orsi erano solo 6-7 ci fu una orsa problematica. Quindi il problema non è nel numero degli orsi, è che ogni tanto viene fuori un orso problematico che può essere effettivamente un pericolo. E figuriamoci, io sin dall'inizio sono stato molto supportivo del progetto di reintroduzione dell'orso, dicendo sempre che anche l'abbattimento di qualche orso troppo problematico era nell'ordine delle cose, e secondo me è giusto che sia così. Quindi lei sarebbe favorevole, Boitani, ad abbattere quest'orso? No. No, io sono stato molto favorevole e ero ancora favorevole all'abbattimento di M49, che era ovviamente un orso problematico. Nel caso di questo orso qui io penso che sarebbe stato molto più carino, diciamo così, una parola generica, avere un supplemento di indagine per mettere questa cosiddetta aggressione, diciamo così, a un incontro cruento, perché poi è cruento, metterlo nel contesto, cioè perché è avvenuto, come è avvenuto, e se magari scoprendo che non è proprio colpa dell'orso, è colpa di entrambi, e che forse questo orso qui non debba essere abbattuto. Ma al di là di questo, Boitani, sì. Fermo restando che esistono sempre degli orsi problematici, io sarò il primo a dire che quando sono veramente problematici devono essere rimossi, punto. Che cosa ne pensa Fugatti sinteticamente? Abbiamo ancora un minuto. Dico che M49 che ho fatto catturare io dal presidente della provincia autonoma di Trento, che era un orso molto problematico perché entrava e usciva dalle maghe e le distruggeva, ne faceva diciamo di tutti i colori. E questo è un dato di fatto. Però io ho firmato un'ordinanza di cattura, e adesso l'abbiamo catturato. Perché mi sono fermato alla cattura? Perché non c'è mai stata l'occasione di poter dire, fortunatamente, che abbia attaccato una persona. E quindi ci siamo fermati alla cattura. In questo caso qua c'è un attacco alla persona di questo secondo esemplare. Allora, in quel caso lì abbiamo firmato un'ordinanza di abbattimento. Ma poi il professor ovviamente dice che bisognerebbe sapere come sono andate le cose, noi abbiamo i due testimoni, l'orso, ci dobbiamo fidare dei due testimoni che sono feriti, che sono finiti all'ospedale. Fugatti, ma mi dica una cosa, siccome abbiamo ancora pochi secondi, se il ministro di quello che dice il professore, perché vedo che comunque interpreta le problematiche nostre di chi. Ma se il ministro dell'ambiente dovesse andare avanti con il ricorso per bloccare completamente l'ordinanza? Sono felicissimo. Che il ministro dell'ambiente mi trovi un posto dove mettere l'orso problematico, ok? Io lo prendo appena posto, glielo porto a Costa e Costa mi dice dove portarlo, ok? Quindi si deve dire un posto, un paese, una zona fuori dall'Italia, dove vuole lui, mi dice dove portarlo. Quindi Costa si ritroverà un po' di orsi sotto casa, insomma, da collocare. No, rispetto di Costa che ho fatto. Sì, era una battuta, chiaramente. Costa, quindi sto parlando seriamente. Certo. E ho anche rispetto del ministro, se è chiaro. E, cioè, voglio dire, se col Ministero dell'Ambiente è stato troviamo chiaro un accordo dove portare questi orsi problematici, sì, ok, che abbiamo e magari anche gli orsi in più che abbiamo sul nostro territorio. Troviamo la soluzione. Benissimo. Sediamo con Costa e troviamo la soluzione. Grazie, grazie Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Grazie al professor Boitani della Sapienza di Roma. Ci dobbiamo assolutamente lasciare e ci risentiamo brevemente alle 22.